in primo piano. Buongiorno a tutti di nuovo, i titoli di apertura dei quotidiani di oggi sono ancora tutti per il terremoto, in particolare per il dramma delle persone che hanno perso la casa, ma molto spazio oggi sia nelle prime pagine sia all'interno è dedicato anche al decreto legge sulla sicurezza che ieri alla Camera è stato votato ma senza le norme sulle ronde e sull'espulsione degli immigrati. Vediamo adesso i titoli principali dei quotidiani, Corriere della Sera, ancora paura, 28.000 senza casa, Berlusconi all'Aquila tra le macerie, città fantasma, ora 100 progetti. In Abruzzo decine di scosse ogni giorno, i morti sono 272, si scava fino a Pasqua, linea dura contro gli sciacalli. A centropagina richiamo sulla notizia politica, stop su ronde e espulsioni, esplode l'ira della Lega. Stravolto il testo sulla sicurezza anche grazie ai voti PDL. E in fondo di taglio basso una notizia originale del Corriere e la regione riassume i parenti dei politici, Calabria, Sviluppo Italia in liquidazione, 100 licenziati su 138 vengono salvati, un'inchiesta di Sergio Rizzo. La Repubblica, il dramma dei senza tetto, Berlusconi all'Aquila, la ricostruzione sarà lunga, pene dure per gli sciacalli, il governo cerca 1 miliardo, spunta l'ipotesi una tantum, nuove scosse, i morti salgono a 272, primi arresti per i furti tra le macerie. Domani lutto nazionale per i funerali. Sotto la fotografia di apertura a centropagina, governo battuto su ronde e immigrati, l'ira leghista. E in fondo un richiamo nel taglio basso di un servizio che poi se abbiamo tempo leggeremo, chi licenziamo lo decide il reality, l'ultima creatura di Endemol già venduta alla Fox di Murdoch, la lotta tra i lavoratori. La Stampa, 100 cantieri per ripartire, Berlusconi, ogni provincia curi un progetto, domani funerali di Stato e lutto nazionale. E sotto la fotografia, anche qui a centropagina, espulsioni e ronde, alta della Camera, schiaffo alla Lega, Maroni accusa il PDL, è un indulto per i clandestini. Il Sole 24 Ore, anche oggi è il titolo di apertura dedicato al terremoto, all'Aquila 100 cantieri e la prima New Town, bilancio più grave, 273 morti, 28.000 sfollati, oggi sussidi, accelera lo scudo fiscale, Berlusconi guarda alla ricostruzione. Ma con grande evidenza altri due servizi, pagamenti lunghi nelle imprese emergenza credito, in forte aumento difficoltà e ritardi degli incassi, dalla UE vincoli alle amministrazioni pubbliche e un'intervista al presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, che parla al Sole 24 Ore, un'intervista di Beda Romano. Trichet dice i governi tardano ad attuare i piani di rilancio e per quanto riguarda le banche nazionalizzare sì, ma lo statuto resti di diritto privato. Il Messaggero, l'Abruzzo scava, piange e spera, Berlusconi terzo giorno tra gli sfollati, 100 progetti per la ricostruzione. A centropagina pene severe contro gli sciacalli, anticipi INPS per i pensionati, allarme furti, fermati e rilasciati 2 uomini con 80.000 euro. Il Giornale, il futuro, 272 morti e 182 scosse in 48 ore, ma l'Abruzzo vuole già ricominciare. L'Avvenire, il Papa, verrò tra voi. Il governo, 100 piani di ricostruzione, uno per provincia. Oggi il capo dello Stato tra i terremotati, domani lutto nazionale e funerali celebrati dal Cardinale Bertone, annunciata la visita di Benedetto XVI. Libero. Apre invece con la notizia sulle ronde sui clandestini, liberano 1.000 clandestini, colpa dei franchi tiratori, a fine mese per decorrenza dei termini gli irregolari usciranno dai centri, grazie a qualche decina di imbecilli del centrodestra che ha votato contro il governo, poi vedremo l'editoriale di Vittorio Feltri. L'Unità. Speriamo che le scosse finiscano e che non ne faccia una veramente forte. Questo è un messaggio internet rilasciato da Carlo il 3 aprile ore 14:31, quindi 3 giorni prima del terremoto. L'allarme su internet, da settimane i giovani dell'Aquila si scambiavano messaggi preoccupati. Il Manifesto, l'Aquila e gli avvoltoi. Il Riformista invece di nuovo sceglie le ronde, Maroni raso al suolo, battuto dai franchi tiratori, il ministro, sono furibondo. Il Giorno, caccia ai predoni, gruppi di sciacalli attorno alle case sventrate, scattano gli arresti. E infine Il Secolo XIX, c'è una bella foto di bambini che giocano tra le tende, sopravvivere da terremotati, una notte nel gelo della tendopoli con l'incubo Irpinia. Vediamo adesso di approfondire qualche cosa. Questa mattina vorrei cominciare dal Sole 24 Ore, perché sul Sole 24 Ore oggi c'è l'ultimo editoriale di Ferruccio De Bortoli, che da oggi è il nuovo direttore del Corriere della Sera e saluta i lettori del Sole 24 Ore. L'editoriale di Ferruccio De Bortoli, che parte dalla prima pagina, si intitola «Un po' di quello che si è fatto, errori compresi». Allora, questi pezzi non si dovrebbero scrivere. Anni fa venne a trovarmi un editore orgoglioso del libro che aveva appena dato alle stampe. Titolo originalissimo, In and Out. Raccoglieva gli articoli di insediamento e di commiato dei direttori dei giornali. C'erano anche i miei. Lo sfogliai e mi misi le mani nei capelli. Una noia mortale. Una distesa di retorica. Il libro ebbe scarsa fortuna. Non so se questo scritto meriti un appendice a quella sciagurata iniziativa editoriale. Così comincia l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, che poi racconta che cosa è stato fatto in questi anni al Sole 24 Ore. Che cos'è un giornale e soprattutto il primo giornale e sito online economico italiano, il più diffuso in Europa, e perché nel suo genere è unico, serio e sobrio. Cercherò di spiegarlo con alcune cose fatte. L'elenco è assolutamente parziale. Nel 2005 il Sole 24 Ore si distinse per le inchieste che smascherarono le malefatte di alcuni immobiliaristi e banchieri in spregio a ogni regola di mercato. Oggi non se lo ricorda nessuno, succede sempre così. Se non vi fosse stato il sole, quelle verità non sarebbero emerse. Avremmo avuto così un'Italia migliore? Chiediamolo ai risparmiatori truffati e ai correntisti di una popolare che non c'è più. L'editoriale di De Bortoli poi continua e racconta le cose fatte dal Sole 24 Ore in questi anni, dal Manifesto per le piccole imprese al racconto della crisi finanziaria, iniziato, scrive De Bortoli, con un fondo di Edoardo De Biasi del 4 febbraio 2005 dal titolo Contratti derivati, una bomba nascosta che fece arrabbiare un noto e celebrato banchiere, e proseguito poi con vari articoli, tra cui ne cita un altro del 19 agosto 2006 dal titolo Gli hedge ora speculano sui mutui. L'autore, scrive De Bortoli, non è né Rubini né Tremonti, è solo un giornalista del Sole e ci ha preso prima. Non abbiamo ceduto in aggettivi catastrofici, ma nemmeno sparso pietose bugie o praticato un ottimismo di maniera. Si è detto quello che non andava, ma con la preoccupazione di andare a cercare sempre anche quello che va, e non è poco. Chiacchiere e gossip, continua De Bortoli, non ci hanno mai interessato. La discussione seria sulle riforme, la laicità dello Stato e la tutela dei valori di fondo della Costituzione, sì. La nota quotidiana di Stefano Folli è una delle poche bussole che consentono di capire veramente il paese in cui viviamo. Qualcuno obietterà, prosegue, sì, ma il grande capitale, le grandi imprese, come li avete trattati? Come tutti, senza sconti. Un esempio, il caso Alitalia. È stato raccontato nella massima libertà, nonostante la cordata degli imprenditori comprendesse tanti nostri azionisti che a volte non hanno gradito. E qui devo dare atto a Emma Marcegaglia di essersi dimostrata un grande editore liberale, come prima di lei Luca di Montezemolo. L'ho fatta troppo lunga, conclude il suo articolo Ferruccio De Bortoli. Auguro al nuovo direttore Gianni Riotta, che lascia il più grande telegiornale italiano per venire a dirigere il più grande quotidiano economico italiano, buon lavoro. Ringrazio i lettori per la fiducia e la fedeltà e insieme a tutti i colleghi giornalisti e non abbraccio i vice direttori Gianfranco Fabi, Edoardo De Biasi, Alberto Rioli ed Elia Zamboni. Anche noi salutiamo il direttore e gli facciamo gli auguri più sinceri per il suo nuovo incarico. Torniamo adesso alle notizie di oggi e ricominciamo con la lettura dei servizi che riguardano il terremoto. Molto spazio oggi sui giornali è dedicato al ruolo di Silvio Berlusconi. Comincio a prenderlo dal Corriere della Sera, a pagina 5. Peggio di quello che immaginavo, ora 100 cantieri. Queste sono le parole pronunciate ieri all'Aquila da Berlusconi. Berlusconi torna all'Aquila tra le macerie, nuovo reato per gli sciacalli, non dormo da 44 ore. Il Cavaliere annuncia un decreto per la cassa integrazione alle 10.000 persone rimaste senza lavoro dopo il sisma. A questo articolo si accompagna un retroscena di Francesco Verderami dal titolo Silvio in trincea guarda al modello G8. Il Premier andrà periodicamente in Abruzzo. Voglio le targhe di inizio e fine lavori. Cosa racconta Verderami? Il volto ridanciano di Londra si è trasformato nella maschera dolente d'Abruzzo e nelle foto Berlusconi non è più protagonista, abbracciato a Obama e Medvedev. Si scorge appena sullo sfondo, defilato nella sala operativa allestita dalla protezione civile all'Aquila il giorno dopo il sisma. Il presidente internazionale è oggi il presidente soccorritore, conscio del ruolo, per nulla incline alla polemica. E se fino ai funerali di Stato di domani sarà il momento della solidarietà, da sabato verrà il tempo dell'azione, perché c'è un motivo se negli indici di fiducia il Cavaliere ha raggiunto picchi altissimi. Non è la macabra contabilità del consenso, è il peso che i cittadini gli hanno messo sulle spalle. A Berlusconi è dedicato sul Corriere della Sera anche un trafiletto che invece però riguarda le polemiche della stampa estera, che ha sottolineato alcune gaffe del Premier. Il titolo è Camping, il Premier inopportuno. La frase di Berlusconi sulla sistemazione in tendopoli come un fine settimana in campeggio ha fatto il giro del mondo. Dal Times, grave gaffe, a Le Monde, dubbio gusto, fino al País e alla Frankfurter Allgemeine, mentre il belga Le Soir ha inaugurato la rubrica Le Berlusconerie, le berluscavolate. Per l'Economist la battuta inopportuna rischia di vanificare l'iniziale reazione di Berlusconi, definita vigorosa e senza passi falsi. Sbagliato per il settimanale britannico anche il rifiuto degli aiuti stranieri. Palazzo Chigi ha replicato con una nota al Times, accusato di non aver registrato la reazione positiva degli sfollati alle parole del Premier. Continuo su questo filone del ruolo del Premier all'Aquila, perché se ne occupa anche la stampa nel suo editoriale firmato da Massimo Gramellini. Il titolo è Il Premier, giacca e maglione. Ci voleva un incubo per realizzare il sogno degli elettori di Berlusconi, vederlo fare finalmente il Berlusconi. Assieme alle case dell'Aquila, il terremoto si è portato via il palazzo della politica che lo teneva imprigionato da 15 anni, con qualche breve intervallo ludico nei summit internazionali. Per la prima volta lo abbiamo visto all'opera non come politico né come imprenditore, ma come imprenditore dotato di potere politico, il capufficio dell'azienda Italia, un presidente del Consiglio sì, ma d'amministrazione. Forse il mestiere che gli riesce meglio, di sicuro quello che gli piace di più. Abbandonato il doppio petto dei traffici romani che tanto lo annoiano, ha rispolverato il maglione della libertà, gli ha arrotolato le maniche e sopra ci ha messo il timbro istituzionale di una giacchetta. E così, maglione più giacchetta, il presidente imprenditore è sceso in campo. Il suo campo, quello del fare, dove può esprimere la personalità debordante senza i vincoli delle procedure formali, come ai tempi eroici della TV, quando spostava personalmente le telecamere negli studi, ha fatto del centro devastato dell'Aquila il suo posto di lavoro quotidiano. Il fondo di Gramellini prosegue poi all'interno sulla stampa. Vediamo adesso l'altra notizia di oggi, e cioè quella del governo battuto sul decreto sicurezza. La prendiamo da Repubblica. Il titolo, ve lo ricordo, è Governo battuto su ronde e immigrati, l'ira leghista. Governo battuto alla Camera su ronde e immigrati, salta la norma che portava a 6 mesi la permanenza dei clandestini nei centri di identificazione ed espulsione. La Lega si scaglia contro i franchi tiratori. Il ministro Maroni sono fuori. furibondo. A questa notizia è dedicato un articolo di fondo, un approfondimento di Massimo Giannini, che si intitola C'è giustizia in Parlamento, e parte dalla prima pagina. C'è un giudice a Montecitorio, scrive Giannini. La doppia, clamorosa bocciatura delle norme sulle ronde e sul tempo di permanenza degli immigrati nei CPT è un'ottima notizia. In primo luogo è una novità che fa ben sperare per la civiltà giuridica del Paese. Giannini prosegue poi all'interno, pure in questi tempi di crisi del multiculturalismo e di drammatica escalation dei flussi migratori, non esiste altra democrazia europea che abbia introdotto leggi non da stato emergenziale ma da stato criminogeno. Le ronde anticlandestini sono questo e non altro, e non è un caso che fossero state bocciate dal Consiglio Superiore della Magistratura perché incostituzionali e dal sindacato di polizia perché ingestibili. L'allungamento a 180 giorni della permanenza dell'immigrato nei centri di smistamento è perfino peggio, una misura sostanzialmente carceraria stabilita da un'autorità amministrativa in assenza di reato e di garanzia giurisdizionale. In secondo luogo, prosegue Giannini, la doppia bocciatura dei provvedimenti fortemente voluti dalla Lega è una novità che fa ben sperare per la qualità politica del centrodestra. Il ritiro della prima norma e l'affondamento in aula della seconda dimostrano che nemmeno nella destra berlusconiana, populista e plebiscitaria, c'è spazio solo per il pensiero unico elaborato fra il cavaliere e il senatore nel chiuso delle cene di Arcore. Questo è l'editoriale di Giannini sulla Repubblica, di tutt'altro tono ma dedicato allo stesso argomento, l'editoriale di Feltri su Libero. Il titolo era Liberano 1000 clandestini, colpa dei franchi tiratori. Cosa scrive Feltri? Mi auguro che Roberto Maroni sia paziente quanto Giobbe, altrimenti la coalizione di governo rischia nelle prossime settimane di sbriciolarsi. La cosa successa in Parlamento ieri non è soltanto grave per la stabilità politica, ma anche per la reputazione dell'esecutivo in queste ore impegnato nell'emergenza terremoto in Abruzzo e da mesi sul fronte della crisi economica. Sarebbe folle mettere in discussione la compattezza del centrodestra per i motivi, ancora da scoprire ma sicuramente meschini, che hanno consentito all'opposizione di bocciare la legge riguardante l'immigrazione selvaggia, una pagina vergognosa della corrente legislatura. Un gruppo di idioti, altrimenti detti franchi tiratori, ha impallinato un provvedimento basilare al fine di dotare il Viminale di uno strumento indispensabile per espellere gli extracomunitari clandestini. Si trattava cioè di prolungare da 2 a 6 mesi la permanenza di tali stranieri nei centri identificazione ed espulsione, periodo indispensabile per portare a termine le pratiche burocratiche relative ai rimpatri. Niente da fare. La maggioranza si è volontariamente sparata alla tempia e il ministro Maroni è rimasto col cerino in mano, oberato di problemi e senza l'unico mezzo che gli avrebbe permesso di risolverli. A questo punto vi vorrei leggere qualcosa dell'intervista che ha rilasciato il presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, a Beda Romano sul Sole 24 Ore. È richiamata in prima pagina con la foto di Trichet. L'ufficio di Jean-Claude Trichet non è certo disordinato, ma è sommerso di documenti, faldoni e incartamenti vari. Comincia così l'intervista. Sono ovunque, sulla scrivania, sulla mensola della libreria, sul lungo tavolo di riunioni. A 2 anni dallo scoppio della peggiore crisi economica e finanziaria dai tempi della Grande Depressione, il 66enne presidente della Banca Centrale Europea è in trincea, o meglio in prima linea, e su diversi fronti. È affaticato? Chiede l'intervistatore. I tempi sono impegnativi, ma no, grazie, non sono stanco. È un Trichet diverso dal solito, meno economista, più discorsivo e quindi più politico. La prima domanda riguarda il G20 di Londra, il vertice della settimana scorsa. È appena terminata la riunione del G20 a Londra, chiede il giornalista. Una strategia comune tra i maggiori paesi del mondo è stata trovata, anche se talvolta manca di mordente in molti campi. Che giudizio ne dà, almeno sul fronte della cooperazione internazionale? Questa riunione rappresenta una svolta molto, molto importante nella cooperazione internazionale, risponde il presidente della BCE. Il G20 appare ormai come un foro indispensabile nella gestione di questa crisi. Poi Trichet parla delle misure introdotte finora e dice: non metterei l'accento su una misura in particolare, sono tutte importanti e vanno considerate insieme. Mi sembra che coprano tutti gli aspetti più rilevanti di questa crisi. Ora l'importante è che queste vengano introdotte in modo rapido, veloce e il più professionalmente possibile. Sarà importante a questo punto anche introdurre progressivamente misure anticicliche nel campo dei regolamenti in particolare. Vuole dire per caso che nonostante tutto finora i governi sono stati lenti nell'introdurre misure per alleviare le conseguenze della crisi e aiutare l'economia e la finanza? Gli chiede Beda Romano. Non direi che i governi siano stati lenti, direi piuttosto che a livello mondiale, quindi anche della zona euro, non sono stati abbastanza rapidi per essere interamente convincenti agli occhi degli operatori economici. Le misure di sostegno decise sono molto significative, ma non sempre sono state introdotte in modo efficace. Ecco perché le misure decise a Londra debbono essere introdotte velocemente, rapidamente e nel modo più professionale possibile. L'ultima domanda, una delle ultime domande che gli fa Beda Romano riguarda le nazionalizzazioni delle banche.